storia e la memoria di Dino Pesole. Il prossimo 24 aprile in Armenia e nel mondo verranno ricordati i 100 anni dall'inizio del genocidio degli armeni e il primo sterminio di massa del XX secolo, il Metz Yegern, che in lingua armena significa il grande male. Il culmine delle celebrazioni sarà appunto il 24 aprile, data tradizionalmente scelta per commemorare i tragici eventi che nel 1915 e nel 1916 in particolare portarono alla morte di circa 1,5 milioni di persone e alla quasi completa cancellazione della presenza armena nei territori dell'allora impero ottomano. Del genocidio degli armeni parliamo questa sera con il professor Marcello Flores, docente di storia dei diritti umani e storia della cultura all'Università di Siena. Buonasera professore e bentornato. Buonasera, grazie. Allora, il professor Flores ha scritto un nuovo libro, un aggiornamento peraltro di altri testi che aveva già pubblicato, edito per Il Mulino, dedicato proprio a questo tema. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 1915, i turchi eseguirono i primi arresti tra l'élite armena di Costantinopoli. Fu il primo passo verso il genocidio di un'intera comunità. Una campagna di eliminazione che trae origine non solo dall'ideologia apertamente razzista del sedicente partito progressista dei giovani turchi, ma che affonda le sue origini più profonde nelle antiche e mai sopite contrapposizioni religiose tra i musulmani ottomani e curdi e la minoranza cristiana armena. Tra il 1894 e il 1896 il sultano Abdul Hamid aveva avviato un primo programma di emarginazione nei confronti degli armeni, ritenuti responsabili dei fallimenti economici del suo governo. Temendo la completa dissoluzione dell'impero, la Sacra Porta e il Partito dei Giovani Turchi accusarono le minoranze armene, ebraica e araba di tramare contro l'impero. All'inizio del 1915, nel corso di una riunione segreta del Comitato di Unione e Progresso, indetta per pianificare lo sterminio degli armeni, il segretario esecutivo Nazim concluse con queste parole i lavori dell'Assemblea. «Siamo in guerra e non potrebbe verificarsi un'occasione migliore per eliminare tutta la popolazione armena. In un momento come questo, è estremamente improbabile che vi siano interventi da parte delle grandi potenze e proteste da parte della stampa». Professor Flores, allora torniamo a parlare di questi tragici eventi a 100 anni di distanza, partendo da un dato che riguarda il tema fondamentale del riconoscimento da parte della Turchia di questo genocidio, che ancora la Turchia continua a negare. Pensa che si arriverà in tempi ragionevoli a una rivisitazione di questo giudizio oppure siamo molto lontani? Ma io credo che finché la Turchia sarà governata da un tipo di governo come quello attuale che c'è ormai da parecchio tempo, questo sarà certamente difficile. Però credo che bisogna anche sottolineare come nella società turca, quindi dentro la società civile, rispetto anche solo a 10 o a 5 anni fa le cose sono andate molto avanti. Vorrei solo ricordare che un libro che ha avuto molto successo, che è stato un best seller in Turchia, è il libro che è stato scritto dal nipote di uno dei triumviri responsabili del genocidio del 1915, Cemal, e Hasan Cemal, che è il nipote, che è un giornalista e scrittore, ha scritto un libro che si intitola 1915, il genocidio degli armeni. Ecco, un titolo del genere che 10-15 anni fa lo avrebbe portato immediatamente sotto processo e in prigione, adesso è diventato un best seller. Quindi significa che c'è forse su questo tema un po' una divaricazione crescente tra la posizione del governo e dello Stato turco e quello invece di un'opinione pubblica ancora minoritaria, ma che certamente sta crescendo sempre di più nella consapevolezza di quello che è successo e nella volontà di sapere quello che è successo. Allora, il tempo ovviamente trascorre, quindi è importante ricordare. Allora, facciamolo un attimo di nuovo brevemente insieme, professore. Ricordiamo poi ai nostri ascoltatori quali furono le vere ragioni per cui a un certo punto venne pianificato questo sterminio di massa. Beh, dunque, Dunque, questo sterminio è un processo che diciamo conosce delle tappe ravvicinate sempre più rapide, potremmo dire a partire dalle guerre balcaniche. Già precedentemente c'era un'idea nel governo dei giovani turchi di turchizzare l'Anatolia, cioè di rendere l'Anatolia, che era considerato il cuore della nazione turca, anche se in realtà i turchi lì erano arrivati molto dopo gli armeni e i curdi, ma comunque era stato costruito questo nazionalismo che individuava nell'Anatolia la patria turca, e si era pensato che si dovesse eliminare la presenza soprattutto cristiana e armena, e limitare anche quella dei musulmani non turchi, cioè dei curdi. Questo piano, nel momento in cui con le guerre balcaniche l'impero ottomano perde ancora di più i suoi territori, perde praticamente tutti i suoi territori che sono in Europa, e nel momento in cui tra le due guerre va al potere il triunvirato, cioè una frazione ancora più radicalmente nazionalista di quella che c'era precedentemente, e nel momento in cui questo triunvirato entra nella prima guerra mondiale alleandosi con la Germania, e ci saranno le prime sconfitte sul fronte russo, la battaglia di Sarikamir, dove moriranno centinaia di migliaia di soldati turchi, e poi con la paura che lo sbarco a Gallipoli possa portare alla sconfitta dell'impero, tant'è vero che Istanbul, la capitale, viene evacuata, in quel momento si pensa davvero che si debba giocare il tutto per tutto per salvare la Turchia, per salvare il cuore della Turchia, e quindi dare il via a questa eliminazione della presenza armena. Sì, cioè, sappiamo, in questi ultimi decenni c'è stato un dibattito molto acceso in sede storiografica, ma anche giudiziaria, se vogliamo, per qualificare o no lo sterminio degli armeni come genocidio. Ma al di là di questo, che può sembrare un dettaglio ma che in realtà poi non lo è, alla fine alla Turchia, devo dire, spetta questo triste primato di aver inaugurato la stagione degli stermini di massa nel XX secolo. Sì, sicuramente ci sono stati altri stermini di tipo coloniale, diciamo così, però all'interno della storia europea e con una tragica grandezza come quella che avviene in Anatolia, in Cilicia, nell'impero ottomano tra il 1915 e il 1916, certamente possiamo dire che è il primo genocidio. La difficoltà un po' nell'usare questo termine è che, sì, come si sa, questo termine è stato inventato nel 1944. Certo. Quindi si dice, beh, come si può usare un termine per una cosa che è accaduta precedentemente? Però le caratteristiche che ha avuto il massacro degli armeni, come si chiamavano a Roma allora i massacri degli armeni, caratteristiche che sono poi state indicate nel 1948 nella Convenzione per la prevenzione e la punizione del genocidio, che è diventata una legge internazionale, e quindi mi sembra più che giusto riconoscere, come fanno praticamente quasi tutti gli storici e quasi tutti i giuristi, che si è stato effettivamente un genocidio, anche se allora lo si chiamava in un altro modo. Certo, e qual è il suo punto di vista? Io lo conosco, ma lo esplicitiamo meglio ai nostri ascoltatori, sul tema della introduzione del cosiddetto reato di negazionismo. Dunque, io credo che cercare di risolvere con la legge, con una legge penale, quindi con una multa, una carcerazione, eccetera, una questione che appartiene alla cultura, o meglio, per i negazionisti appartiene all'ignoranza e all'uso strumentale di questa ignoranza, in genere per motivi di tipo politico, di tipo razziale, di razzismo vero e proprio, e così via, credo che non sia utile, soprattutto non sia utile, perché il rischio, come si è visto in qualche caso dove queste leggi, come in Francia, ci sono, passano i negazionisti per delle vittime del libero pensiero, della libera espressione di un punto di vista che potrebbe in qualche modo far parte del dibattito storiografico. Certo. Quindi io credo che è davvero con le armi dell'educazione, con le armi della cultura che bisogna riuscire a emarginare sempre di più queste che poi sono posizioni ultraminoritarie e che in un caso di un processo invece avrebbero un rilievo necessariamente più forte, potrebbero spingere anche qualcuno ad aderire a queste visioni che altrimenti, se vengono lasciate perdere, passano al dimenticatoio. Certo, è una battaglia soprattutto culturale, professor Flores. Noi la ringraziamo molto per essere stato con noi questa sera e la invitiamo ovviamente in un'altra occasione, quando torneremo sicuramente a riparlare di queste tristi vicende di 100 anni fa. Buonasera professore, grazie. Grazie a voi, arrivederci, buonasera.